Funtime Radio presenta Ludico Forum. Voi sentite nei sottofondi da questa puntata ogni uno starnuto. Ogni tanto parleremo, insomma, diciamo che dei poi, fatti nostri, che poi sarà praticamente una sorta di mini rubrica in Ludico Forum, che come qualcuno si è accorto ieri, insomma, è tornato dicendo: ma non Ludico Forum non era chiuso. Cioè, sono tutti questi spezzettini che verranno inseriti all'interno di mini episodi che si chiameranno Michela gioca cose. Ah, ok, perfetto. Mi piace questa cosa. Sì. Allora, faccio una piccola introduzione, perché poi alla fine quello che mi interessa è il parere di Michela, no? Cioè, nel senso, io già ho un'idea, insomma, me la so fatta, penso di averne anche parlato da qualche parte. E esistono questi giochi narrativi dove ovviamente vengono raccontate delle storie e il giocatore, insomma, interagisce facendo delle scelte e via dicendo, a volte interagendo un po' di più, a volte interagendo un po' di meno. In questo caso, nel gioco di cui stiamo per parlare, che si chiama South... Ma la musica che sentiamo sotto è la musica del gioco? Esatto. Ah, bene. Si chiama South? Non mi ricordo. Of the Circle. South of the Circle. Tra l'altro l'abbiamo capito nel gruppo di Pixel Deb, che si dice Circle, no Circle o Circle. Abbiamo fatto tutto South of the un circle. Laboratorio linguistico per capire come si diceva. E questo gioco, ma lo potete chiedere a me, tu non c'eri in quel momento, tu stavi lavorando. Okay. Comunque, questo gioco, che è uscito nel 2000, nel 2020, scusate, su Apple Arcade, nel 2000, insomma, è praticamente totalmente narrativo. Cioè, l'interazione, diciamo, è praticamente basica. Diciamo che tu puoi interagire decidendo praticamente in che modo il personaggio interagisce nelle discussioni, nei dialoghi, quindi che tipo di tono dargli, se è una cosa curiosa, se essere risoluto, se essere, insomma. E quindi questo è un po' il limite, diciamo, da questo punto di vista di questo gioco, che non è appunto un gioco, ma è prevalentemente un film. Cioè, è una storia. È un film animato con uno stile visivo molto particolare, che ricorda un po' quei quadri, non so se ci avete presente, quei quadri illustrati degli anni 60-70, quindi con quelle litografie un po' particolari, insomma, no? Cioè, nel senso, molto, molto schematiche, però con disegni realistici. E praticamente, appunto, il giocatore in questo gioco interagisce relativamente, però la storia, dal punto di vista registico, del movimento di camera, della narrazione, della colonna sonora e anche della recitazione, secondo me è comunque un'esperienza che va fatta, per quanto abbiamo detto, insomma, che non c'è un vero e proprio gameplay. Cioè, il videogiocatore classico direbbe: ma che è sta roba, insomma, cioè, nel senso. Però io ci tenevo a farlo giocare a Michela come gioco d'ingresso di questa nuova serie che si chiama Michela gioca cose. Ti piace, Michela, che gioca cose? Sì, mi piace. Adesso ti faccio anche la cover con un joypad in mano. Ok, perfetto. Va bene. E quindi ho fatto giocare questo, che tra l'altro è anche una bella storia ambientata in un contesto storico relativamente vicino a noi, anche credibile, poi, tutto sommato. Assolutamente. Allora, in realtà, è ambientata in Inghilterra negli anni 60, sì, negli anni, diciamo, dei, sì, Troubles, e cioè a cavallo tra i Troubles e la Guerra Fredda, diciamo così. No, a cavallo. Quindi, cioè, le due cose in qualche maniera. Sì, le due cose in qualche modo si. Il macroscenario e la Guerra Fredda si uniscono. Esatto. Però comunque l'Inghilterra è quella dei Troubles, quella in cui le donne si rendono conto di avere un ruolo fondamentale all'interno di tutti gli ambiti della vita culturale e politica, e ovviamente poi vengono facilmente fraintese o facilmente incastrate in cose magari che non tanto, insomma, le riguardano veramente. Era una rivoluzione culturale quella, sì, no? C'era un passaggio, sì, quindi quella transizione tra, sì, la e donna il mondo accademico, e il mondo accademico è sicuramente un mondo che ha faticato tantissimo a diventare un mondo aperto alle donne, e vi devo dire la verità, io ho studiato in una facoltà e in una università molto rinomata, molto, cioè, molto conosciuta, ma rinomata non è che è studiata a Yale, insomma, però io mi sono laureata in lingue e letterature straniere alla Sapienza, e quando sono arrivata io il massimo esponente del insomma conoscitore di Shakespeare, che tutti in qualche modo dovevano venerare come Dio, era sicuramente un grandissimo professore, ma era anche un grandissimo stronzo che non c'è più, maschilista, e quindi sono parole dalle quali io mi dissocio, e quindi vi lascio immaginare, insomma, cioè è stato molto difficile per le donne entrare in questo mondo accademico e avere una autorevole voce in capitolo, e quindi questo, nonostante, cioè, questo discorso è marginale all'interno della storia, però viene in qualche modo molto evidenziato e viene molto e ritorna molto spesso, perché comunque il protagonista deve fare una scelta importante, che poi magari non ve la spoilero perché non credo che sia giusto, insomma. No, senza spoilerare, però ricordiamo sempre che il sottotesto, diciamo, come lo slogan del gioco film, alcune promesse sono per sempre. Sì, e diciamo, vabbè, questo lo possiamo dire, perché comunque lo capiamo dall'inizio, il protagonista partecipa, cioè, diciamo così, usufruisce del supporto di Clara per lavorare a questo studio importantissimo, che in qualche modo poi si ricollega alla meteorologia e alle radiazioni, e senza il supporto di Clara in realtà non ce l'avrebbe mai fatta. Clara, che è questa donna con la quale lui vediamo nella insegnante, storia. Insegnante, tra l'altro, che tutti adorano, perché poi mentre il mondo accademico fatica a entrare in contatto con il mondo femminile e a dare un riconoscimento alle donne in quanto donne, in quanto preziose, per, o comunque in quanto non in quanto donne, in quanto importanti per il lavoro che fanno, diciamo così, gli studenti, che sono la nuova generazione, riempiono praticamente le aule di questa insegnante, perché comunque in qualche modo capiscono che è veramente rivoluzionaria. Lei è veramente una donna rivoluzionaria, e in qualche modo lo studio che poi porterà a compimento insieme al protagonista è comunque rivoluzionario, e lo porterà ad affrontare un viaggio molto molto, esatto, molto molto molto particolare. Allora è giusto quello che dice Michela, perché poi l'ambientazione è proprio questa, quel mondo accademico particolarmente conservatore come quello di Cambridge, in un contesto politico particolare dove c'era questa grossa paranoia, no? Che, sì, insomma, si evince, insomma, durante, e poi questo lavoro basato sulle scienze climatiche, che poi alla fine era tutt'altro, cioè cose che loro probabilmente non avevano capito. Bello, secondo me è bello, molto molto bello, cioè, nel senso, pur molto... non essendo un vero e proprio videogioco, tu come lo giudichi come esperienza? Beh, ma io ne ho fatte diverse ormai di queste esperienze, quindi mi ci sto quasi abituando, quindi devo dire che comunque però questa è un po' diversa dagli altri, è proprio più seria, cioè, nel senso, no, devo dire che io l'ho apprezzato moltissimo, e in realtà lo consiglierei a molte persone, perché in realtà è una storia scorrevole, e ovviamente, cioè, come hai detto tu, l'interazione è minima, nel senso che noi possiamo scegliere magari, che ne so, il tono da dare alle varie conversazioni, però comunque poi la scelta è abbastanza mirata, quindi comunque non possiamo fare altro che seguire il corso della storia, che comunque in qualche modo ci porta a diverse riflessioni sulla storia stessa che abbiamo vissuto, e paradossalmente la storia che stiamo vivendo, perché purtroppo sia quella per sia la lotta per i diritti diciamo così delle varie minoranze tra virgolette, sia comunque questa specie di umiltà all'interno delle istituzioni per quanto riguarda comunque il ruolo femminile, anche la parità di non so, anche solo di stipendi o comunque di riconoscimenti, non è ancora un valore del tutto certo. Del tutto insomma certo, viene sempre messa in discussione, e siamo nel 2023, qui parliamo dei Troubles, gli Troubles parliamo negli anni 60, quindi insomma sono passati circa 60 anni e mi sembra che sia cambiato abbastanza poco, ma soprattutto è cambiato tanto, però poi purtroppo ogni tanto abbiamo questo sguardo, c'è un ritorno, all'indietro passato, insomma, sì. E soprattutto poi tutto quello che è insomma il sottofondo e lo sfondo e la storia che praticamente si concentra sulla guerra fredda e su come poi in realtà questa guerra fredda viene vissuta dalle persone che anche senza capirlo vengono coinvolte sul campo, diciamo così, perché poi non vi voglio spoilerare tanto, per cui io ritengo che sia una storia molto valida, e in realtà credo che sia molto importante che molte persone comincino ad usufruire di queste, diciamo così, di queste narrazioni, al di là di libri, dei film, eccetera eccetera, perché poi una volta che si scardina, diciamo così, preconcetto del fatto che è un videogioco, sì, ad esempio. Sì. Ci si rende conto che alla fine una storia può essere raccontata in diversi modi, e sicuramente questo è un buon modo di raccontarla. E io mi sono trovata molto spesso anche a riflettere su alcuni dei dialoghi che ci sono all'interno del gioco. E poi vabbè, magari devo dire, probabilmente è un discorso su cui io sono abbastanza ferrata, perché ho studiato all'università proprio questo periodo storico, l'ho approfondito molto, quindi ho studiato l'Inghilterra degli anni 60 e quindi ho amato anche molto questo, diciamo così, questo aspetto dell'approfondimento, quindi in realtà mi ci sono trovata molto bene dentro, insomma. È molto bello, però in realtà vi consiglio, al di là del fatto se conosciate o meno il connotamento storico, connotamento si dice? Assolutamente no, però va bene, dai. Tu vai avanti, tu vai oltre. vi consiglio assolutamente di scoprire questo gioco narrativo e di magari provare a fare questa nuova esperienza, soprattutto per le persone che come me non ne usufruiscono tanto, quindi non conoscono proprio il settore, e magari possono scoprire qualcosa di molto interessante. Bene, South of the Circle. Grazie per averci seguito. Per stasera è tutto. Ludico Forum vi augura buonanotte.